vorrei già saperla a memoria. Bazzica il mio cuore finché non si spegnerà. Brucerò ogni polline nell'aria. Le goccine, le nere portano fortuna. Non è che c'è una maglia che non usi più per me. Dimmi di portarti con me. Le goccine, le nere portano fortuna. Non è che c'è una maglia che non usi più per me. Dimmi di portarti con me. E questa era Coccinelle Nere di Tripolare. E cosa volevo dire? Ah beh, niente, naturalmente non poteva mancare il nostro fantastico Marco Roma anche il lunedì di Pasquetta. Ed eccolo qua. Buongiorno! Ti vedo così felice, ti vedo così felice insieme a me perché io ti vedo felice da Marco Roma. Buongiorno! Grazie mille Marco Roma, avevamo veramente bisogno di questa tua cantatina. La settimana scorsa, come avevo annunciato due settimane fa nell'angolo della menzione, c'è stato questo fantastico talk di Emanuele Coccia, che è un filosofo che io non conoscevo, perdonatemi l'ignoranza, che ha parlato d'amore. E volevo, siccome naturalmente non potevo non andare all'Accademia di Belle Arti di Bologna senza il mio registratore digitale, naturalmente mi sono registrato un po' fino a che non sono finite le batterie, però ascoltiamo qualche spezzone perché secondo me merita. L'amore è luogo di una perdita irreparabile, un torto irreparabile, dove ciò che si è dato non può mai essere risarcito, quindi è il contrario della giustizia, almeno in un primo momento. Al di là dell'esperienza personale di ciascuna e ciascuno di noi, c'è qualcosa però di più profondo che rende l'amore, a mio avviso, oggi in Europa qualcosa di rotto e irreparabile. Spezzato per sempre, il luogo di una ferita che ci ha reso confusi, confuse e disorientati. Basta leggere un romanzo, un giornale contemporaneo per rendersi conto che nessuno oggi sembra sapere cosa significa amare. E in senso profondo, nessuno e nessuna sa cosa chiedere all'esperienza dell'amore, nessuno e nessuna sa cosa pretendere dalla persona che amiamo, nessuno e nessuna sa se vogliamo veramente amare. C'è una bellissima canzone, se non so se vi ricordate, la canzone che Loredana Bertè ha presentato a Sanremo qualche anno fa, il cui ritornello era la migliore descrizione di questo stato di smarrimento. E il Dio narrante si diceva: che cosa vuoi da me, che cosa ti aspetti dentro di te, che tanto non lo sai, tanto non lo vuoi, quello che cerchi tu da me, che cosa vuoi per te, cosa ti aspetti in fondo a te. Smarrimento totale. Ora, le ragioni di questo smarrimento sono numerose. C'è innanzitutto un dato culturale. Facciamo parte di una cultura che ha fatto dell'amore uno dei due pilastri che definiscono la nostra identità. È stato il filosofo canadese Charles Taylor a riconoscere che la modernità non è esclusivamente il risultato dello sviluppo tecnologico, delle conquiste europee in altri continenti o delle trasformazioni dell'ordine sociale e politico. Alla base della modernità c'è un progetto morale rivoluzionario che ha portato la vita quotidiana definita dalle sue caratteristiche più ordinarie e banali, l'amore e il lavoro, al centro di tutte le preoccupazioni politiche, economiche, sociali e materiali delle nostre società. Siamo moderni non perché utilizziamo smartphone, oggetti tecnologicamente avanzati e sofisticati, non perché possiamo viaggiare ovunque sul pianeta o perché viviamo in città sovraffollate. Siamo moderni perché scommettiamo che la nostra identità si definisce attraverso ciò che produciamo, ciò che facciamo ogni giorno, ma soprattutto attraverso l'amore libero per una persona, indipendentemente dal sesso, dalla classe, dall'età, dalla religione, e senza altro scopo che il fatto stesso di amarla. Siamo moderni solo quando pensiamo che la nostra libertà e la nostra perfezione morale si misurino in questa libertà di amare. Nessun'altra cultura nella storia ha immaginato questo. E proprio per questo abbiamo fatto quindi dell'amore la logica morale più pervasiva che esiste, dell'eros il grande imperatore delle nostre vite, la nostra ossessione. E a causa di lui e in vista di lui che tutto accade, tutto deve accadere. Poco importa che si tratti di sesso, di esperienze compulsive, di innamoramento da Tinder, di vita di coppia prolungata, l'amore è la ragione, il fine, il mezzo di tutte le nostre azioni, di tutti i nostri pensieri, la loro forma, la loro fonte, la loro materia strana e sporca. Siamo in fondo pronte e pronti a sacrificare Eros persino alla nostra felicità. In verità non desideriamo essere felici, desideriamo amare ed essere amate o amati, al di là o al di qua di qualsiasi felicità possibile. Almeno le cose inutili che ti sembra vero solo se doveva andare poi così, che vuoi dare tutto e resti lì. Ed io ci credevo, ed io ci credevo, sì. Ci vuole soltanto una vita per essere un attimo, perché ci credevi, perché ci credevi, sì. Ti aspetti tutta una vita per essere un attimo. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa ti aspetti dentro te? Che tanto non lo sai, tanto non lo vuoi. Quello che cerchi tu da me. Che cosa vuoi per me? Che cosa vuoi? Poi finisce qui, puoi fare a meno di fare almeno le cose facili. Se è vero poi più vero è, se va bene, va bene così. E fragile, fragile, resti lì. E io ci credevo, sì. Ci vuole soltanto una vita per essere un attimo. E tu ci credevi, ci credevi, sì. Ti aspetti tutta una vita per essere un attimo. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa ti aspetti dentro te? Che tanto non Ciao Stefano e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko e Coxo Spaziale. Buona Pasquetta e spero che abbiate tutti quanti passato una bellissima Pasqua. stavo pensando di leggere un pezzo di un libro e chi lo sa, magari qualcuno indovina già chi è, già che cos'è e chi è. La pagina comunque è la numero 174 e mi è venuto in mente per una passeggiata che ho fatto nella natura questa mattina e dove si vedeva il grandissimo sbocciare della primavera, l'albero di Giuda con i suoi bellissimi fiori violetta e tutte le gemme delle querce, dei fichi che stanno nascendo e stanno ritornando dopo un inverno in cui tutti gli alberi sembravano già morti, no? Una cosa che ogni primavera, ogni inizio di bella stagione mi stupisce sempre. Quindi niente titolo del libro, ma numero di pagina, 174. Darcy Thompson, nel suo libro Crescita e Forma, ci mostra come si possono capire le forme della natura, studiandole durante la loro formazione. Nel suo libro, pubblicato nel 1917 in lingua inglese e nel 1969 in italiano da Boringhieri, spiega il suo metodo di indagine e mostra parecchi esempi illustrati della sua ricerca. È questo un metodo di indagine e di conoscenza della natura più vicino allo spirito orientale che a quello occidentale, che studia le forme in sé. L'analisi è condotta con rigore scientifico e quindi è ricca di dati oggettivi. È questo un esempio di come andrebbe intesa la conoscenza della realtà, la famosa copia dal vero che si fa pedestramente in tutte le scuole d'arte. Sarebbe meglio insegnata e capita se sviluppata nel senso di Darcy Thompson. Lo stesso Leonardo indagava la natura come un metodo scientifico. Esso non si limitava a disegnare ciò che vedeva, ma voleva capire perché quella cosa aveva quella forma. Mamma купила трактора. Mamma купила трактора. Mamma купила трактора, трайна Ніна. Армагедонона. Мама купила трактора. Мама купила трактора. Мама купила трактора. Трайна Ніна Армагедонона. Трактор. Мама любила Мурона. Мама любила Мурона. Мама любила Мурона. Трайна Ніна Армагедонона. Мама любила Мурона. Мама любила Мурона. Мама любила Мурона. Трайна Ніна Армагедонона. E devo ringraziare anche Pietro Serra che mi ha fatto scoprire che tutti i brani dell'Eurovision Song Contest sono già online, per cui ci siamo appena ascoltati questo Mama Sc dei Let Three, ovvero la canzone ufficiale della Croazia. Ta-da! Ciao, sono Emily e questo spaziale. Riccardo Lolli, sto facendo un coxo spaziale registrato e verrà trasmesso il lunedì di Pasqua. Siccome tu sei tipo un papa per me con la tua trasmissione Uova, Soda e Noci, che va in onda al giovedì, non mi ricordo se a mezzanotte o alle 11, ma penso a mezzanotte, su Radio Città Fujiko e su tante altre radio, mi chiedevo, ma potresti darci un messaggio di speranza? Ciao Stefano, sono qua in Via Speranza e ti mando un messaggio di speranza. In Via Speranza c'è il MUST, e anche se in effetti è un MUST, però io oggi non entro perché chi vive sperando morì rimestando. Effettivamente più la rimesti e più puzza. Comunque la speranza è nei vaterini degli asili nido, ammesso che mi venga rinnovato l'appalto decennale per la manutenzione. L'asilo del MUST invece è privato. Uova, Soda e Noci va in onda alle 23, se arrivate alle 24 siete un po' lunghi, e comunque vi ringrazio della fiducia, del papato, e spero di collaborare quanto prima e viceversa. Ecco qua per la signorina. Marina, Marina, sbrigati, hanno portato la colazione. Basta, grazie. E cosa stavo dicendo? Continua a parlare, ti ascolto. Mi scuserai, ma voglio farmi una doccia. E il tempo di cui dispongo è scarso. Ti annoierai. Sii sincero. Oh no, appunto. Metti a posto. La ragazza passeggia per il viale, rincorrendosi da sola. Dietro la porta occhieggia un maiale, porta le scarpe ma senza la suola. Sarebbe bello se tornai a scuola, rincorrendomi da sola. Se sono volgare il tempo vola, se sono fine non ha mai fine. Adesso picchio le bambine, più quelle brutte che quelle belline. Poi mi mangio le tortine che ho rubato alle bambine. Passeggia per il viale, ho delle viole ma non le vuole, vuole solo del caviale, ho un vassoio di raviole. Chi è? Non si può neanche scherzare. In questo momento no, ho i miei pensieri. E allora ce li tenga. Basta, grazie. E cosa stavo dicendo? Non mi rendete triste. La ragazza occhieggia per il viale, rincorrendosi da sola. Se cala il sole si sente sola, s'alza la luna perché è già luna. Ero bionda e diventerò bruna, rincorrendomi da sola. Marina! Marina! Chi è? Moreno! Aldo Moreno! Vengo! Marina! Marina! Chi è? Moreno! Almeno questi non li avrai persi. Ora non abbiamo più niente da dirci. Puoi pure ritornare in camera tua. La. Coxo spaziale. Sono Roberta Giallo e questo è Coxo spaziale. Stefano. Non sappiamo cosa dire. Che cazzo ci faccio qui? È il nuovo singolo di Un Fauno, il brano disponibile nelle piattaforme digitali per Micidiale Records dallo scorso marzo. Scrive il comunicato stampa di Sei Tutto Press. Nel brano dell'ironico e stroboscopico artista romano, i synth disperati danno forma, con un ritmo sempre più frenetico, a un vero e proprio richiamo per tutti gli emarginati che vorrebbero spiccare il volo, ma restano incollati a terra. Tutti vogliamo essere luce, ma prima dobbiamo fare i conti con le nostre ombre. La produzione porta la firma di Alex Legit e il testo e la musica sono di Un Fauno. Ascoltiamocelo, cosa dite? Che cazzo ci faccio qui? Che cazzo ci faccio qui? Che cazzo ci faccio qui? Raggiungimi e salvami. Stanno tutti ballando l'ultimo pezzo di salmo. Io chiuso dentro questo cesso che sto iperventilando. Bussano già, hai fatto fra. Vorrei sparire come chiavi nel divà. Ci siamo armati di momenti amati fino ai denti. Vorrei difendere il mio onore, non ho più argomenti. Una madre premurosa e un uomo che comanda. 9 mesi han generato un punto di domanda. Che cazzo ci faccio qui? Che cazzo ci faccio qui? Che cazzo ci faccio qui? Che cazzo ci faccio qui? Sognando di stringerti. Stranger things. Che cazzo ci faccio qui? Potevo portarti al mare. Che cazzo ci faccio qui? Questa notte mi fa male. Che cazzo ci faccio qui? Io mi sento soffocare. Raggiungimi e salvami. Salvami. Luci microscopiche attraversano la galassia, arrivano alla Terra e ne trafiggono la massa. Fuori luogo sempre, fuori luogo ovunque, come Carmelo Bene su Canale 5. Quando avrò le ali guarderò il tetto di casa tua volando sopra l'infernetto. Milano ha avuto Gaber, io ho avuto il tuo sapore. Dante ha visto demoni ma ha creduto nell'amore. Che cazzo ci faccio qui? Che cazzo ci faccio qui? Che cazzo ci faccio qui? Che cazzo ci faccio qui? Sognando di stringerti. Stranger things. Che cazzo ci faccio qui? Potevo portarti al mare. Che cazzo ci faccio qui? Questa notte mi fa male. Che cazzo ci faccio qui? Io mi sento soffocare. Raggiungimi e salvami. Potevo portarti al mare. Che cazzo ci faccio qui? Questa notte mi fa male. Che cazzo ci faccio qui? Io mi sento soffocare. Raggiungimi e salvami. Salvami. Ma adesso naturalmente passiamo al nostro fantasmagorico, l'angolo della menzione. Mercoledì 12 aprile alle 21 per il terzo appuntamento di Diversions Moving Image Showcase Volume 2, Parsec presenta Feral Domestic di Dani e Sheila Ristak a cura di Nomadica presso il circolo Dev in via Capo di Lucca 29/3G a Bologna. Riuniti per la prima volta in una trilogia, questi tre video, Strangely Ordinary, This Devotion, Come Coyote e Future From Inside, sono testimonianze di tempo, desiderio queer, famiglia, conflitto e sono anche un tentativo di delineare una pratica artistica collaborativa che possa fungere da via di fuga in un mondo che spesso sembra guastato. Il folcolare domestico, questa è l'ipotesi, può essere luogo di catalizzazione inaspettata e invenzione. Riuniti uniti sotto il tiro di Feral, sotto il titolo di Feral Domestic, i video offrono uno sguardo intimo e viscerale sui modi in cui la decisione di formare una famiglia può coesistere con la creazione artistica. Nomadica è un circuito per il cinema sperimentale d'artista, sostiene la creazione e la circolazione di opere autonome. Questo è mercoledì alle 21 al Circolo Dev in via Capo di Lucca e naturalmente trovate tutti i dettagli su parsecbologna.com. Giovedì 13 alle 18 Lynn Espinosa, Pagine dell'Anima, la prima esposizione personale dell'artista colombriana presso la Galleria Studio Cenacchi, curata da Jacopo Cenacchi, mostra al pubblico dopo molti anni dalle ultime personali presso la storica Galleria Paolo Nanni le sue ultime opere realizzate quest'anno insieme ad un nucleo di opere datate tra il 2004 e il 2013 per dar conto dell'evoluzione nella ricerca artistica della Espinosa. Questo è lo Studio Cenacchi Arte Contemporanea in via Santo Stefano 63 a Bologna. Sabato 15 alle 14.30, sempre a cura di Parsec, un altro genere di traduzione, teoria, pratiche, esercizi, laboratorio con Laura Fontanella, organizzato da String Figures, rassegna di teorie e letteratura transfemminista queer di Lo Spazio Letterario e Parsec. Laura Fontanella ci condurrà tra teorie e pratiche della traduzione, soffermandosi sull'importanza delle parole, delle scelte, della traduzione come atto politico e collettivo, partendo da un brano tra da Transgender History di Susan Stryker, oggi in libreria in lingua italiana con il titolo Storia Transgender, radici di una rivoluzione. Il costo del workshop è di 20 euro per il laboratorio e 5 euro di tessera associativa. Per iscrizione andate su coxospaziale.blogspot.com e troverete il link per iscrivervi, oppure potete scrivere a parsec.bo@gmail.com. Sempre sabato alle ore 20 invece Antifa Benefit Fest con Hobos, Guerra, Hoax e Da and the Dallas. Serata benefit per i condannati a 18.000 euro di multa per aver contestato Salvini all'Università di Bologna nel giugno 2016. Apertura e cena alle ore 20, inizio del live alle ore 21. Live on stage abbiamo Hobos, Metal da strada come piace ai punks, da Treviso, i Guerra, Street Justice in Your Face da Forlì e gli Hoax, Palm Mute Punks da Bologna. Il DJ set è di The Dallas. Questo è alla ex centrale e salutiamo i fantastici Federico e Sissi che sono venuti la settimana scorsa qui da noi in via di Corticella 129 a Bologna. Domenica 16 aprile alle 11 di mattina invece abbiamo, dopo che vi siete ripigliati dall'ex centrale, abbiamo la musica da camera con un incontro musicale tra Franz Schubert e Ottorino Respighi a Bologna con il pianista Leonard Felix che suona le opere dei due compositori e legge delle loro lettere. Questo è all'Istituto di Cultura Germanica. Sempre domenica al 16 aprile alle ore 17 invece abbiamo i 100 anni della signora dei concerti Carla Fanti. Concerto del Bologna Piano Trio, 3 pianisti, 3 amici, 3 docenti del Conservatorio Martini di Bologna. Abbiamo Patrizia Prati, Luisa Fanti e Luigi Caselli. Per entrambi i concerti, sia quello delle 11 che quello delle 17, l'ingresso è a offerta libera, ma si prega di prenotare telefonando allo 051 745 9292. Questo è l'Istituto di Cultura Germanica in via De Marchi numero 4 a Bologna. E mi chiedevo appunto se Matteo Salvini, contestato all'Università di Bologna nel 2016, avesse ascoltato questa canzone per poi decidere di multare questi giovanotti che l'hanno contestato. Chissà. Sei mai trovato gioco forza in un tipico locale con a fianco tuo malgrado un petulante disturbatore? Ma smettila, coglione! Impara a rispettare la gente, se no ti spacco la faccia! Ah sì, E io sai cosa faccio? Io ti denuzzo, toccami ti denuzzo, tu mi tocchi io ti denuzzo e poi mi faccio le vacanze, ti denuzzo, se mi tocchi ti denuzzo, se mi tocchi ti denuzzo e io mi pago le vacanze, ti denuzzo, toccami ti denuzzo, tu mi tocchi io ti denuzzo e poi mi faccio le vacanze, ti denuzzo, se mi tocchi ti denuzzo, se mi tocchi ti denuzzo e io mi pago le vacanze, se mi tocchi io ti denunzio e con il ricavato della denunzia mi faccio le vacanze. Tu mi tocchi e io ti denunzio e con la denunzia mi pago le vacanze. Ti sei mai trovato in un cinema con una gustosa prima visione, ma con accanto a sbraitare un fastidioso disturbatore? Ma basta, oh! Hai finito di rompere il cazzo, se no ti prendo a sberle! Ah sì, e io sai che cosa faccio? Io ti denuzzo, toccami ti denuzzo, tu mi tocchi io ti denuzzo e poi mi faccio le vacanze, io ti denuzzo, se mi tocchi ti denuzzo, se mi tocchi ti denuzzo e io mi pago le vacanze, ti denuzzo, toccami ti denuzzo, tu mi tocchi ti denuzzo e poi mi faccio le vacanze, ti denuzzo, se mi tocchi ti denuzzo, se mi tocchi ti denuzzo e io mi pago le vacanze. Se mi tocchi io ti denunzio e con il ricavato della denunzia mi faccio le vacanze. Tu mi tocchi e io ti denunzio e con la denunzia mi pago le vacanze. Ringraziamo Arianna che mi ha fatto sentire questo magnifico pezzo e mi stavo quasi dimenticando un'ultima menzione, ovvero il fatto che lunedì 17 abbiamo i Ruan Grupa. Loro sono il collettivo che ha curato la magnifica edizione di Documenta dell'anno scorso, collettivo artistico indonesiano appunto a cui è stata affidata la curatela dell'ultima edizione di Documenta di Kassel 2023, dove appunto sono anche, ho anche fatto un mini coxo spaziale apposito, la cui pratica a base comunitaria si ispira alle idee di sostenibilità e di partecipazione, per cui non mancate all'incontro di lunedì 17 aprile alle ore 17 all'Accademia di nell'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e per ascoltare appunto i Ruan Grupa. Io sono curiosissimo. Naturalmente trovate tutto su ababo.it. Oggi mi sono accorto che un tale Pietro Spanò mi ha chiesto l'amicizia su Facebook e ho detto chi sarà, vado a vedere e scopro che canta. Ed ecco, devo dire che ogni tanto Facebook da boomer funziona per queste cose. Ascoltiamo il pezzo di Pietro Spanò, appunto, La matematica è un'opinione tossica, che è uscito l'anno scorso. E io che avevo 4 in matematica al liceo artistico sono abbastanza d'accordo. E così saluto la prof Bacchilega, che mi dava 4. Le correlazioni dipendono dal fatto che viaggia nel sangue a sinistra e scoprire in seguito le dichiarazioni di opposta appartenenza. Per questo e non solo potrai chiedermi l'autografo. La matematica è un'opinione tossica. Oggi non mi sto, puoi prenotarlo subito. Tutta la verità in un volume unico. E se mi seguirai da questa sera nei talk somministrazioni, 3 casi di cronaca rosa risultano anomali. come per esempio sposata con tre figli. Getta alle ortiche la vita per fare la pornostar. La matematica è un'opinione tossica. Da oggi non gli sto, puoi prenotarlo subito. Tutta la verità in un volume unico. E se mi seguirai da questa sera sinistra e tu da che parte stai? La matematica è un'opinione tossica. Da oggi non gli sto, puoi prenotarlo subito. Tutta la verità in un volume unico. E se mi seguirai da questa sera dobbiamo smettere di pensare che le riparazioni vadano operate in termini politici, giuridici, cioè come risarcimento, ripristino di una condizione originaria. Dobbiamo pensarla sempre più in termini di alterazione, trasformazione quasi tecnologica. E visto che siamo nella città di Cremonini, passatemi un po' questa metafora da quasi boomer, forse sono, qualcuno di voi si ricorderà cosa significava far riparare un motorino o una Vespa negli anni 80. Significava ritrovarsi un motore completamente modificato. Nelle Marche, non so se era Bognare, così si diceva che era un motorino truccato. Ed era, come dire, come avere un veicolo totalmente diverso, nonostante le apparenze da insomma, un veicolo che aveva, non so, che andava a 40 km orari di più rispetto a quello che avevi portato al meccanico. L'amore deve essere truccato, mi sembra, e soprattutto deve essere diventare lo spazio in cui usciamo truccati, non solo nel senso di macchiare, ma con qualche organo in più. L'esperienza in cui non riusciamo più a riconoscerci davvero. Ora, per poter dare una manciata di risposta a questa idea che cosa significa riparare l'amore, appunto il punto di partenza mi sembra riconoscere appunto quello che ho detto, che non sappiamo nulla quindi dell'amore. Tutte le forme tramandate vanno superate e la divisa dovrebbe essere quella che David Bowie affida una delle sue opere più belle, l'inizio appunto di Absolute Beginners, in cui dice: non ho molto da offrire, non c'è molto da prendere, sono un principiante assoluto. I've nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. Beginning. Dunque, praticamente abbiamo fatto un coxo spaziale quasi da solo, nel senso che abbiamo avuto un piccolo intervento di Mia e un altro piccolo intervento di Riccardo Lolli e poco altro. Siamo tutti un po' così. Speriamo che vi siate ripigliati grazie a questi 2 giorni di ferie, o giorno e mezzo, o un giorno, oppure se lavorate in un supermercato nessun tipo di ferie, chi lo sa. E comunque, cos'altro dobbiamo dire? Niente. Vabbè, ascoltiamoci un altro pezzo, direi. Sì, lo so. E così il tempo passa e va. Salutiamo anche i nostri ascoltatori di Radio Pang che ci ascoltano in streaming dagli Stati Uniti d'America. E basta. E in ogni caso io ero Stefano W. Pasquini. E io ero Mia Daschio su Piei. Questo era Coxo Spaziale. Non dimenticatevi di seguirci anche lunedì prossimo dalle 20 alle 21, sempre su Radio Città Fujiko e naturalmente da domani su www.coxospaziale.blogspot.com potrete riascoltare la puntata. Sappiate che la maggior parte delle trasmissioni di Radio Città Fujiko in realtà hanno un loro podcast, basta andare a vedere nella pagina dei palinsesti e trovate i link alla maggior parte delle trasmissioni di questa fantastica radiolina. Come al solito, o forse anche no, perché forse sono in ferie, vi lascio con i fantastici DJ di Panta 80, se non ci sono allora li risentiremo lunedì prossimo. Ci salutiamo come al solito con le parole del nostro direttore Alessandro Canella, che ci saluta come sempre così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Se mi tocchi io ti denunzio, e con il ricavato della denunzia mi faccio le vacanze. Tu mi tocchi e io ti denunzio, e con la denunzia mi pago le vacanze.